cercasi amore, possibilmente totale. Sono disposta a dar via per te dell'anima mia, chi mi può contentare? Tu non mi leggi nel cuore, la tua risposta non vale. Non devi offenderti se mi sento sazia di te, ed ho deciso che io t'amerò. Fuori sì, ma dentro no, e trucco la faccia dell'anima mia come un clown per divertirti un po'. Forza ragazzo che ce la farai ad impietosirmi di più. Ti offro una dose d'amore se vuoi, per un'ora almeno ti tira su. E più ti odio e ti amo, e più ti sento lontano. E veramente sei forte ad insegnarmi la parte, a recitare ti amo e t'odio sempre di meno. E la mia mente va via, mi sto accorgendo che c'è da questa sporca poesia. Cercasi amore, mi serve per non morire. Ho un indirizzo da dare, si dovrebbe fermare al capolinea del cuore. Qualcosa di razionale, con rabbia mi sta pudore. Per questo lasciami stare, anche se ci sai fare. Ho deciso che t'amerò, fuori sì ma dentro no, e trucco la faccia dell'anima mia come un clown per divertirti un po'. Che meraviglia se adesso dirai che ti tento ancora di più. Ho un'altra dose d'amore se vuoi, questa volta anch'io mi tiro su. E più ti odio e ti amo, e più ti sento vicino. E veramente sei forte ad insegnarmi la parte, a recitare ti amo e t'odio sempre di me.